Italia in controluce, la politica nel tunnel. Buongiorno da Elisabetta Fiorito e dalla postazione di Radio 24 a Montecitorio. E buongiorno da Vincenzo Miglietta. Subito il tema della nostra puntata, dedicata ancora alla politica, all'elezione del Presidente della Repubblica. Questa mattina la svolta nel Partito Democratico, tramontata la candidatura di Franco Marini, il Partito Democratico punta su Romano Prodi. Chiediamo subito ai nostri ascoltatori se l'ex Presidente del Consiglio può essere la figura adatta per traghettare il Paese in questa difficile fase storica, o se è un nome che divide troppo le forze politiche. 349-238-6666 349-238-6666. Intanto nei primi sms vediamo che insomma il nome di Prodi non riscontra molta simpatia tra i nostri radioascoltatori. Se arriva Prodi è guerra civile, questo è peggio di Scalfaro, Prodi fa venire il vomito, insomma molto molto coloriti anche i commenti. Intanto qui a Montecitorio è in corso lo spoglio della terza votazione, sarà anche questa volta fumata nera, ma il PD ha scelto il nome di Romano Prodi, votato all'unanimità questa mattina all'Assemblea dei Grandi Elettori. Tutto questo malgrado il no del Movimento 5 Stelle e del PDL. Alla quarta votazione il PD può raggiungere la maggioranza semplice, anche se qualcuno dice che il professore non potrebbe non farcela. Allora, qualora Prodi dovesse essere eletto, le elezioni potrebbero essere più vicine, perché Silvio Berlusconi ha già detto che sarebbe emigrato. Vincenzo, sentiamo cosa ci ha detto Gianclaudio Bressa del Partito Democratico. Il fenomeno dei franchi tiratori in un'elezione del Presidente della Repubblica è un dato fisiologico, c'è sempre stato, ma credo che in questo caso il senso di responsabilità di tutti sia tale da far sì che, se dovesse esserci questo fenomeno, sia proprio di pochissime unità. Abbiamo già dato anche troppo ieri. Però non avete voti poi alla fine, perché se... Non ancora, è in corso un'assemblea di scelta civica che non ha ancora deciso chi votare, si riunivano a luna. Quindi... Proponevano cancellieri? Questa mattina, prima che ci fosse la proposta di Prodi. Senta, e a questo punto si va a elezioni se fate Prodi come Presidente della Repubblica, perché il Cavaliere ha già detto che lui emigrerà. Beh, questo è un problema del Cavaliere. L'emigrazione del Cavaliere non significa elezioni in questo paese. Il prossimo Presidente della Repubblica credo abbia il dovere di tentare di dare un governo per risolvere i problemi. L'equazione Prodi elezioni mi sembra una vera scemenza. Queste dunque le parole di Bressa del Partito Democratico. I nostri sms, no, no e no, scrive Michi, un nostro ascoltatore, evidentemente tre no, chissà, Prodi, Elisabetta, non si sa. Cacciari è l'unico di sinistra presentabile, scrive Max, i dirigenti PD si sono sempre combattuti con ferocia, Bersani è un galantuomo, scrive Maria Rosaria. C'è pure che dice emigro, cambio paese, quindi come il Cavaliere, almeno Berlusconi, invece alcuni dicono almeno Berlusconi se ne va via dall'Italia. Quindi pareri contrastanti, Vincenzo. Sì, pareri contrastanti che danno veramente il senso di come questa elezione del Presidente della Repubblica sia molto sentita dai nostri ascoltatori. In tutto ciò cosa fa il Popolo della Libertà? Il PDL è evidentemente su tutte le furie per quello che è successo nel Partito Democratico, per la virata su Prodi. Trattano l'elezione del Presidente della Repubblica come se fosse il congresso PC-PDS-DS, il Quirinale come fosse la sede di partito, attacca il segretario Alfano. È chiaro che ci comporteremo di conseguenza, dice ancora Alfano, sono i soliti comunisti, aggiunge Brunetta, che vede dietro l'angolo il ritorno al voto. Sentiamo allora Brunetta. Siamo in campagna elettorale, il PD ha mentito su tutta la linea, gli italiani sono un popolo intelligente che capisce, è successo esattamente come nel 2006. Il PD si è preso Presidente della Camera, Presidente del Senato, Presidente della Repubblica, si prenderanno anche il governo e finirà come nel 2006, cioè dopo un anno e otto mesi di governo, allora implose Prodi, ora imploderà non so chi e torneremo al governo con più voti che nel 2008. E non mancano anche dei commenti molto divertenti, tipo Prodi ridurrà l'Italia come la Cirio, alcuni parlano poi delle famose sedute spiritiche, dobbiamo salvare un paese con delle sedute spiritiche e questo è il messaggio. Ricordiamo questa famosa seduta spiritica in cui si parlava, no, del rapimento, Moro, sì, e di Via Gradoli. Di Via Gradoli, che poi invece era il lago Gradoli, e ci fu un piccolo caos purtroppo che non salvò Moro in quelle circostanze. Il PDL potrebbe a questo punto votare la cancellieri alla quarta votazione, nome proposto da Scelta Civica. Mario Monti in una conferenza stampa ha spiegato il perché del ministro attuale degli interni. Sentiamo Monti. Perché Anna Maria Cancellieri? Perché ci sembra che risponda a quelle caratteristiche che piacciono ai cittadini e quindi possa raccogliere il favore degli italiani. Non è un rappresentante della vecchia politica, per la verità non è un rappresentante della politica, non fa parte di nessun partito, non ha mai fatto parte di partiti. È un servitore dello Stato, indipendente e molto autorevole. E queste dunque le parole di Monti sulla candidatura della Cancellieri. Tantissimi gli SMS, per quanto mi riguarda Prodi è l'ipotesi migliore, scrive Dalia da Bologna, una figura internazionale, competenza economica, onestà e rispettabilità, ma Elisabetta, mi sembra che statisticamente prevalgano in effetti i giudizi negativi su Prodi dei nostri ascoltatori rispetto a quelli positivi. Prodi ricorda molto un sagrestano, dice un altro ascoltatore. E però ricordiamo anche la posizione di Rodotà, perché Stefano Rodotà, che è ancora il candidato del Movimento 5 Stelle, che però è l'ex presidente del PDS, si sta trovando in una situazione di imbarazzo e allora ha voluto dichiarare che non vuole essere ostacolo di altre scelte del Movimento 5 Stelle. Torna a ringraziare i grandi elettori, in particolare quelli del Movimento 5 Stelle di SEL, i moltissimi cittadini che mi hanno espresso fiducia, ma non intendo creare ostacoli a scelte del movimento che vogliono prendere in considerazione altre soluzioni. Insomma, in pratica, in politichese, Rodotà si potrebbe ritirare per fare spazio a Prodi, anche se Grillo ha subito detto di no, ha un po' lanciato anatemi. E allora sentiamo il leader del Movimento 5 Stelle. Io ho parlato 5 minuti fa col professor Rodotà, che è il nostro candidato per essere il presidente. Rodotà era anche infastidito che si sparga la voce che lui potrebbe abdicare a Prodi. Nessuno del Movimento 5 Stelle si è mai sognato di votare Prodi come presidente della Repubblica. E non se lo sognerà neanche in futuro, che sia ben chiaro. Il nostro presidente della Repubblica è il signor professor Rodotà. No alla mortadella che ci ha svenduti in Europa. Questo è un altro commento del radioascoltatore. I nostri radioascoltatori si stanno scatenando. Pane e mortadella sarà il panino che andrà di moda alla buvette durante questo intervallo pranzo, Vincenzo. Sì, sembra così. Altro elemento di interesse è cosa faranno, Elisabetta, i leghisti, cosa farà il Carroccio. Ricordiamo che questa mattina la Lega non ha votato, ancora non si è espressa sulla cancellazione. Ieri sappiamo che il PDL forse potrebbe votare la Cancellieri, però anche qui su Prodi è una netta bocciatura. Questa mattina è andato giù duro Calderoli su Prodi, usando termini che non stiamo qui a riferire, ma comunque ecco, la Lega e il Carroccio non giudicano positivamente un eventuale arrivo di Prodi al Quirinale. Ma Elisabetta, se abbiamo altri SMS. Sì, Prodi, come disse Silvio, un utile idiota, dice Roberto. Prodi ci ha portato l'euro, ecco le conseguenze. Quando farà il discorso di fine anno a reti unificate, Prodi addormenta tutta l'Italia. Prodi è una bufala, basta costi nomi. Ma poi c'è da dire una cosa, che c'è un paradosso all'interno del Partito Democratico, perché scompatti su Prodi però si dividono e non fanno le larghe intese col PDL, oppure si spaccano e fanno le larghe intese col PDL. Insomma, Bersani sta proprio friggendo. Aspettiamo allora la quarta votazione, si abbassa il quorum, ore 15:30 all'inizio della votazione. Per Controluce è tutto, un saluto da Vincenzo Miglietta e da Elisabetta Fiorito.